Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Manuale di omosessualità di Progetto Gay, capitolo 15. Amore gay e condizionamenti sociali. Questo capitolo è dedicato ad una riflessione sui condizionamenti esercitati nel rapporto tra due ragazzi gay dalla diversa educazione e dalla diversa condizione sociale. In genere, quando un ragazzo gay si innamora di un ragazzo di cui non conosce l'orientamento sessuale, la domanda che immediatamente si pone è gay o non è gay? Se per un verso è vero che si tratta di una questione fondamentale che condiziona automaticamente tutto il resto, è pur vero che non si tratta comunque dell'unico condizionamento. Spesso, una volta che un ragazzo gay abbia accertato che il ragazzo di cui si è innamorato è anche egli gay, dopo i primi momenti di entusiasmo subentrano le prime perplessità. Non però derivanti da una mancanza di reciproca attrattiva sessuale, ma dalla difficoltà oggettiva nel costruire una relazione profonda a causa di punti di partenza molto lontani. Costruire una relazione tra due ragazzi gay non è una questione essenzialmente sessuale. Occorre costruire un rapporto tra persone che sia fatto di fiducia reciproca, di affetto e di rispetto. Intervengono a questo punto due variabili che in genere nella fase iniziale sono spesso trascurate: la differenza di educazione e la differenza di condizione sociale. Per costruire un rapporto d'amore serio è indispensabile una condizione di parità che faccia da fondamento al successivo costruire insieme. Quanto maggiori sono le differenze di educazione e di condizione sociale, tanto più difficile è partire su un piede di parità. In qualche modo è comunque possibile farlo, ma sulla base di una rinuncia al proprio ruolo e alle proprie abitudini da parte di uno dei due ragazzi per non condizionare l'altro, ma queste rinunce nascondono spesso delle riserve mentali che prima o poi tornano a galla con tutto il loro potere dirompente. Partiamo dalle differenze di educazione tra ragazzi che vivono più o meno la stessa condizione sociale. Tra loro le differenze si manifestano nelle abitudini di vita, nella maggiore o minore libertà nei comportamenti e nei discorsi, nella maggiore o minore inibizione di fronte alla sessualità. Si tratta di condizionamenti, ma la coscienza della propria omosessualità porta quasi sempre a superare i condizionamenti educativi o a svalutarli dall'interno in nome della possibilità di vivere una vita affettiva di coppia. Un esempio classico sono i ragazzi che hanno avuto un'educazione religiosa, che quando superano il problema del condizionamento religioso o passano oltre in modo radicale o restano in quell'ambiente ma in modo solo formale. Le differenze di livello sociale costituiscono invece una vera e potente barriera che si può alzare tra due ragazzi gay e può impedire loro di vivere una vera vita di coppia. Riporto qui di seguito alcuni dei sintomi tipici del disagio sociale attraverso delle frasi molto significative. Quando esco con i suoi amici non mi trovo bene, è un altro mondo. Lui con i miei amici non si trova bene, non so che cosa gli piglia, sembra imbranato. Ai miei amici non piace, parla proprio di cose di un altro pianeta. Ha un concetto di divertimento che non capisco. Per lui è un rito, secondo me recita. Il disagio sociale si manifesta prima nelle cose esterne e poi gradatamente nelle altre. Che bisogno c'era di occhiali da 300 euro? Non ci vediamo per un mese perché deve andare in vacanza coi suoi, ma secondo me lui preferisce così. Ma a me che me ne frega di vedere le foto che ha fatto a New York? Quando gli propongo di andare a prendere una pizza in qualche posto che piace a me, storce sempre il naso. Io a casa sua? Con la madre che parla con la R moscia? Ma dai. Mi dice che ho l'accento meridionale. Parla troppo di cose che non mi interessano. Mi dice che per me sarebbe disposto a fare tutto, però in vacanza se n'è andato coi suoi. È ingegnere, ok, ma perché me lo deve ripetere mille volte? Mi dice che mi dovrei rimettere a studiare, ma non lo fa per me e che si vergogna di me. Molto spesso nella conversazione si presentano fraintendimenti legati al fatto che i due codici comunicativi sono diversi. Valga un esempio per tutti. Un ragazzo può dire qualunque cosa dei propri genitori, ma non tollera giudizi sui suoi genitori da parte del suo compagno. Il ragazzo A parla male di suo padre. Mio padre ha sempre fatto il suo comodo, dice che è ovvio, perché è lui che caccia, cioè che paga. Non lo sopporto proprio, da quando sa che sono gay è proprio odioso. Il ragazzo B aggiunge la sua critica, effettivamente pure lunedì si è comportato proprio da stronzo. Il ragazzo A passa a difendere il padre, però se non facesse così lo metterebbero sotto i piedi. Il segno vero del disagio sociale è costituito dall'assenza della progettazione di una vita comune. Dalla sottolineatura che il rapporto andrà avanti finché dura, finché ne avremo voglia, ma anche dall'assenza di una sincerità totale reciproca, come se l'altro non dovesse essere se non una persona con la quale si condivide e solo parzialmente la sessualità. Si tratta della cosiddetta falsa coppia, cioè della coppia che condivide solo alcuni momenti della vita e mantiene separato tutto il resto. Spesso la falsa coppia sul piano sessuale funziona bene. La sua debolezza emerge solo in tempi lunghi, quando nei momenti di eclisse dell'interesse sessuale si capisce che non c'è una reale comunità di vita. Una caratteristica delle false coppie è l'idea dichiarata di mantenere un rapporto aperto e libero, idea dietro la quale si nasconde un vuoto affettivo e una sostanziale volontà di non legarsi. Spesso durante le discussioni i ragazzi che si trovano in una falsa coppia tendono a mantenere il punto e a non cedere. La discussione si fa dura e di principio, e non è raro che si arrivi a litigi anche aspri, perché manca la stima reciproca che è l'elemento di base della vita di coppia. La rottura della falsa coppia è, nella grande maggioranza dei casi, definitiva e non rimediabile. Mentre nelle vere coppie che condividono livelli profondi di affettività, la crisi si supera e risulta di fatto un elemento tutt'altro che negativo per la crescita della vita comune. I ragazzi di livello sociale alto, in genere, non sono disposti a sacrificare la loro posizione sociale o a metterla tra parentesi in nome dell'omosessualità. Ci sono eccezioni significative, ma nonostante tutto, ciò che conta di più non è come A sente il problema, ma come B crede che A lo senta. E spesso le incomprensioni sono inevitabili. Il vero problema è essere in due a livello sostanziale, avere le stesse prospettive, lavorare per un noi mettendo da parte la dimensione individualistica. Un'attenzione particolare deve essere rivolta al problema tipico della coppia di costruire un mondo sessuale comune, mettendo anche qui da parte le proprie esigenze in funzione dell'altro. Sessualità condivisa significa fantasie sessuali comuni, significa vivere una sessualità costruita insieme, scoperta insieme, in condizioni di assoluta parità. Mi è capitato di vedere ragazzi che vivono in coppia da anni, per i quali la sessualità è nel modo più evidente uno scambio affettivo che è finalizzato al manifestare all'altro ragazzo che si vuole condividere la vita con lui nel senso più profondo. Va detto però che quei ragazzi avevano realizzato un vero progetto di vita comune e che le difficoltà legate alle incomprensioni da parte delle famiglie e dell'ambiente sociale non avevano fatto che mettere alla prova il loro rapporto stabilizzandolo in modo sostanziale. La sessualità vissuta in questi termini è realmente un modo di amarsi che ormai ha realizzato una vera comunità di coppia. Arrivare a questi risultati non è facile e quando ci sono problemi di educazione molto diversa o di livello sociale molto diverso, superare queste difficoltà richiede sentimenti molto forti e scelte molto determinate. Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro.